Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, dove l'edilizia di qualità molto bassa si concentrano generalmente anche gli strati di popolazione più poveri. In questi ambiti redditi, quindi molto bassi, si trovano ad avere a che fare anche con una domanda di energia elevatissima a causa del fatto che l'edificio, insomma, è in cattive condizioni. I due problemi si moltiplicano in pratica con delle ricadute sociali, se non di salute pubblica, che sono del tutto evidenti. È evidente però che in questi contesti è anche impossibile intervenire con, diciamo, le strategie tradizionali, perché è impensabile chiedere a chi sta dentro queste case di dare un contributo economico. E quindi, insomma, gli incentivi fiscali non servono a nulla e anche il ricorso all'ESCO di solito fallisce. Ecco perché questa sera parliamo del progetto ELIMED, che si è appena concluso, un progetto europeo che ha svolto una sperimentazione su larga scala per verificare la fattibilità di soluzioni innovative e meccanismi finanziari innovativi, appunto sostenuti con fondi FESR, i fondi europei di sviluppo regionale, che potrebbero essere estesi a tutto il Mediterraneo. Ha capitanato il progetto l'ENEA, in particolare Anna Moreno, che è in linea con noi. Buonasera. Buonasera. Allora, è andato 1000 più abitazioni sulle quali voi siete intervenuti in vari paesi d'Europa. Quali paesi? Qual era la dimensione del progetto? I paesi erano nell'area mediterranea, quindi Spagna, Francia, Italia, Grecia, Malta, Cipro e Slovenia. Ok, d'accordo. E appunto 1000 abitazioni in tutta Europa, un centinaio in Italia, nelle quali siete proprio intervenuti, cioè vi siete presentati tra l'altro con gli inquilini abbastanza increduli, a dire: bene, adesso se ci fate spazio un attimo noi vi mettiamo a posto la casa gratis, giusto? È andata così? Sì. Sì, esattamente. Sono 3 sperimentazioni che abbiamo fatte in un condominio a Genova, tra l'altro era quello che aveva subito l'alluvione negli anni scorsi, poi in Sardegna delle case rurali e a Napoli, che era un caseggiato che era stato riadattato per subito dopo il terremoto di Napoli. Sì, era addirittura il piano terra, che erano dei porticati, ma dopo il terremoto avevano chiuso i porticati e trasformati in abitazioni d'emergenza, che naturalmente sono diventate permanenti, come spesso accade. Ecco, che tipo di interventi con quali risultati? Per Napoli e Genova hanno riguardato soprattutto un cappotto termico esterno e sugli infissi, che erano in genere a vetro singolo. Sì, sì. Mentre in Sardegna, poiché non si poteva intervenire sulla facciata perché comunque c'erano dei vincoli, i soliti vincoli, sì, intervenuti su una controsoffittatura e di nuovo sugli infissi. Ecco, sentite, comunque con risultati a volte notevoli. Alcuni di questi edifici si è visto che potevano addirittura arrivare in classe B, in classe A in qualche caso, no? Sì. Siamo sicuramente passati in tutti gli edifici, in tutte le abitazioni, di almeno 2 classi. Ecco, senta Moreno, però tutto questo lavoro, questa sperimentazione sarebbe poco più di una curiosità se dovesse finire lì. Invece ci sono fondi europei che si possono spendere per fare questo tipo di attività, vero? Sì, certo. Innanzitutto ci sono i soldi della programmazione 2007-2013 ancora non spesi, dove si potrebbero, tra le ultime misure, inserire queste attività di riqualificazione delle case a basso reddito. Si parla in effetti di centinaia di milioni di euro e poi sicuramente per la programmazione 2014-2020 sono già previsti 4 miliardi di euro proprio per la riqualificazione da parte dell'Unione Europea, al quale andrebbero aggiunti più o meno altrettanti da parte delle regioni. Certo, quindi 8 miliardi di euro che dovrebbero a loro volta avere una funzione di leva se si riescono a, come dire, a coinvolgere anche dei privati. Quindi stiamo parlando di una cifra significativa. Il problema è che noi spesso queste cifre ce le facciamo sfuggire, no? Infatti, diciamo, io ho parlato con alcune regioni e il problema è che la criticità maggiore è proprio nella capacità di gestire una grossa mole di richieste, e per fortuna, diciamo, all'interno di questo progetto, almeno fino alla fine dell'anno, c'è la possibilità di dare supporto alle regioni facendo tesoro di quanto abbiamo ottenuto. Certo. Con i progetti pilota italiani. Insomma, lei girerà le regioni se le regioni si faranno vive per spiegargli come cercare. Certo, di... No? Le regioni mi chiamano, io sicuramente vado, sono stata già in Campania e in Friuli Venezia Giulia, devo andare in Sardegna, in Toscana, e speriamo che anche altre regioni chiederanno una mano su questo. Grazie Anna Moreno. Prego, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.